questa è la stala, chi mette in livacca quando il piove o quando magari viene un retempo, viene la neve, la mette dentro per muggerli e sì, o magari quando viene la neve magari le può capitare che stai in magari in ca tre noce e devi dire seguito, fino a quando che la va via se ti stala. E sa Paolo, se va sul sora chi, te ne faccio un po' la storia di Pedenola anche. Va, dai, che va. Vieni, dai. Ciao. No, niente, l'ho previsto, l'ho morletto. Dopo arrivi.